Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, buon lunedì, sono le 11.10, pronto il nostro sommario, abbiamo Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, direi che noi ci siamo, andiamo a sentire i temi di oggi. Cataratta, cosa si deve sapere se è arrivato il momento? Farmaci biologici, una nuova arma terapeutica per alcuni tipi di tumore polmonare. Se la palpebra duole e si arrossa, prendila con dolcezza. Cari amici, voglio darvi subito la possibilità di capire se il tema che affrontiamo oggi può essere di vostro interesse. Intanto vi ricordo il nostro numero verde 800 24 0024 e vi invito ad ascoltare queste semplici domande. Ti danno fastidio le luci, ad esempio i fari delle auto? Vedi sdoppiato? Cambi di frequente la prescrizione degli occhiali? Hai bisogno di una luce più intensa per leggere? Ti sembra di avere una percezione ridotta dei colori? Allora, attenzione, a quante di queste domande avete risposto sì, ni, nel senso qualche volta, o no? 824 0024, in studio è tornato a trovarci il dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima del Fate Bene Fratelli di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dottore, che ci azzeccano, verrebbe da dire, queste domande con il tema che affrontiamo oggi, la cataratta? C'entrano perché andando avanti con gli anni tutte queste sintomatologie un po' sfumate, ma soprattutto diciamo una certa mancanza di nitidezza e una certa variabilità da giorno a giorno della qualità della vista possono essere una sintomatologia legata alla cataratta. Vuole aggiungere qualche altro dettaglio che potrebbe fare la differenza, una domanda in più per i nostri ascoltatori da casa, un sintomo, un segnale che potrebbe magari creare in loro l'idea, il sospetto che la cataratta sta diventando magari un problema? La mancanza delle mezze luci. Ho bisogno di aumentare le luci sempre di più. Non sono più le lampadine di una volta. Sì. Questo è un segno che c'è un qualcosa che si sta degradando nella qualità della trasmissione ottica, come un vetro che si appanna. Allora, invece voglio aggiungere anch'io una domanda. Fate attenzione perché vale il consiglio di lettura di oggi. Secondo voi i soffiatori di vetro di Murano hanno più cataratta delle altre persone? Inviateci la risposta a essere benessere @ radio24.it. Il primo ascoltatore che invierà una mail con la risposta giusta potrà avere il libro del consiglio di lettura di oggi. Quindi la domanda è: i soffiatori di vetro di Murano hanno più cataratta delle altre persone? Aspetto naturalmente le vostre risposte, ma dottor Scialdone, prima di tutto, la cataratta è uno degli interventi più richiesti e praticati. Lei l'ha già anticipato, la vita media si è allungata, ma a credere che sia solo colpa degli anni si peccherebbe di leggerezza, perché c'è dell'altro, certo. Vero? Beh, ci sono soprattutto le maggiori richieste di qualità visiva. Oggi ci si opera di più anche perché l'età, soprattutto lavorativa, la voglia di lavorare o la necessità di lavorare allunga gli anni di lavoro, e quindi le necessità di qualità, i computer, i cellulari, i telefonini, tutta la tecnologia, tutte cose che richiedono una vista più che buona. Ci sono delle persone particolarmente a rischio per di sviluppare precocemente la cataratta? Patologie che in qualche modo possono favorirla? Farmaci? Sì. Beh, il farmaco più noto è sicuramente il cortisone, non c'è dubbio. Chi ha dovuto fare grosse dosi di cortisone sicuramente più a rischio, chi ha dovuto fare ad esempio, ma sicuramente non sono tante persone per fortuna, radiazioni ionizzanti per qualche terapia antitumorale, oppure direi per esempio il diabetico è una persona particolarmente prona alla cataratta. Poi ci sono cataratte particolari che noi non immaginiamo, a volte scordiamo, che sono quelle da ipervitaminosi. Chi prende, ci sono casi, per fortuna non molti, in cui persone fissate o indotte a fissarsi con questi integratori che da una parte fanno bene, ma ne assumono dosaggi eccessivi, quindi possono avere anche un incremento della cataratta. Vitamine in generale o c'è ma soprattutto una vitamina A e la vitamina D? Vitamina A e vitamina D. 800 24 0024. Messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. Adesso cambiamo decisamente argomento. Ci sono novità interessanti nella terapia del tumore al polmone. Ne è parlato in un convegno a Roma di recente e in linea con noi abbiamo il professor Filippo De Marinis, direttore della prima unità operativa di pneumologia oncologica dell'azienda ospedaliera San Camillo di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, qualcuno l'ha definita una rivoluzione, altri la fine della chemioterapia. Io partirei dalla notizia. Alcuni tipi di tumore polmonare possono oggi essere affrontati con i farmaci biologici, che avrebbero il vantaggio di agire sulle cellule malate risparmiando quelle sane. Esatto. I nuovi farmaci cosiddetti biologici hanno un bersaglio molecolare, quindi va identificato questo bersaglio molecolare all'interno delle cellule tumorali di alcuni tipi di neoplasie polmonari, e su quel bersaglio è possibile adottare questi nuovi farmaci recentemente immessi in commercio. Professore, però questi farmaci, si è parlato di una compressa da prendere a casa, giusto? Esatto, sono in compresse, una compressa al giorno, a casa, sempre naturalmente sotto controllo del proprio oncologo, ma insomma tutta la drammatizzazione della chemioterapia naturalmente termina, e quindi questo dal punto di vista del risparmio della tossicità per il malato è sicuramente un grandissimo vantaggio. Però questi farmaci, professore, hanno, abbiamo detto, una grande potenzialità, ma un limite: agiscono solo su pazienti che presentano particolari mutazioni geniche. Sono circa il 15% della totalità di quelli con tumore del polmone, tutti per lo più non fumatori, in grande prevalenza donna, e quindi appare chiaro che dall'elenco vengono escluse numerose categorie, e per i fumatori questo non sarà certo una buona notizia. Non lo è, ma nei fatti è sostanzialmente la controprova che fumare è assolutamente dannoso. Purtroppo c'è una percentuale valutabile intorno al 15% di persone che non hanno mai direttamente fumato e che ammalano purtroppo di cancro del polmone. Per loro sicuramente queste terapie possono rappresentare, in virtù di queste presenze di bersagli molecolari che sono valutabili in un modo relativamente complesso, possono rappresentare comunque una speranza per questi nuovi farmaci che sono a disposizione. La percentuale di pazienti che attualmente con tumori del polmone non microcitomi hanno la presenza di mutazioni gira intorno al 10-15%, e tutta la ricerca del prossimo futuro va in questo senso, cioè cercare di analizzare il genoma umano, identificare oncogeni nel proprio genoma e su questi definire trattamenti personalizzati su quel bersaglio molecolare, superando questi limiti storici di una chemioterapia che distruggeva tutto quello che trovava all'ingresso dell'organismo, con tossicità assolutamente incomparabili con questi nuovi farmaci. Mi scusi, professore, dato che noi abbiamo più volte ripetuto che questi farmaci agiscono su pazienti che presentano particolari mutazioni genetiche, come si scopre la mutazione? La mutazione è quella del fattore di crescita definito epiderma growth factor, quindi EGFR. Sì. La mutazione c'è in due posti precisi di questo complesso genico, di questo codone. Sostanzialmente questa analisi molecolare che si fa in centri specializzati si può compiere su tessuto polmonare neoplastico, quindi abbiamo bisogno di avere tessuto e non cellule. Già questo discorso del tessuto è possibile in non più del 50% di tutti i pazienti a cui viene fatto questo tipo di diagnosi. Su questo 50% dei pazienti, queste analisi molecolari che vengono svolte nei centri di anatomia patologica, dove questa sia a disposizione questa metodica, permette di individuare questo 10% positivo a cui noi oncologi possiamo poi somministrare questi nuovi trattamenti. Al posto della chemioterapia classica? Al posto della chemioterapia, almeno naturalmente in una prima fase. C'è da dire che questo tipo di trattamenti può anche essere somministrato successivamente a una chemioterapia. Non so, se il farmaco esce ieri, noi abbiamo il paziente che verrà diagnosticato domani, sì, a cui quindi potremo dare immediatamente questo tipo di trattamento se presente questa mutazione, ma abbiamo anche la possibilità di andare a riprendere pazienti che sono già in trattamento da qualche mese, verificare se è presente questa mutazione e somministrare questo farmaco dopo la chemioterapia. È chiaro che in questo momento dobbiamo, come dire, riallineare tutta una situazione. Grazie professor De Marinis per essere stato con noi, le auguro buona giornata. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori, grazie. Pronto soccorso. E noi ritorniamo al tema portante della giornata, della nostra trasmissione, cataratta, quando la nostra vista si annebbia, un po' è colpa degli anni, ma non è solo l'età a far opacizzare il nostro cristallino, c'è l'utilizzo di particolari farmaci, il cortisone, ha citato il dottor Scialdone, il diabete sicuramente è una condizione che può in qualche modo favorire l'insorgenza della cataratta. Per fortuna però il cristallino si può sostituire, anzi è possibile correggere allo stesso tempo insieme alla cataratta altri difetti visivi, ma questa è sicuramente una buona notizia, due piccioni con una fava, no? Sicuramente. Ma io andrei per ordine. Iniziamo a sentire Franco da Bologna, che ci ha chiamato all'824 0024, poi cerchiamo di capire, quando noi diciamo devo operarmi di cataratta, che cosa effettivamente succede, quanto dura l'intervento, che cosa serve, se ci sono gli esami preliminari, se tutti possono farla. Franco, buongiorno. Buongiorno. Io ho risposto sì a tutte le domande. Sono stato bravissimo, però capisco che avevo un problema. Allora, questo me l'aveva già anche diagnosticato l'oculista. Ho anche avuto nell'occhio sinistro un herpes dentro l'occhio. Sì. E poi, relativamente a quello che diceva, io a causa dei miei residui da fumatore incallito per 30 anni ho dovuto fare molta terapia a base di cortisone, che sto facendo tuttora, quindi penso che possa avermi dato una spinta anche questo verso, come avete giustamente detto voi, verso la cataratta. Volevo sapere le possibilità, cioè com'è l'intervento, cioè più che altro se è definitivo o se è una cosa che poi c'è da fare ogni... Altro ritocchino, grazie. Sì. Franco, quindi noi abbiamo aperto con Franco, sì, che è il nostro ascoltatore giusta. Ideale, no? Esatto, la domanda giusta. Beh, diciamo che l'intervento di cataratta dal punto di vista pratico è un intervento che ha una durata normalmente tra i 15 e i 20 minuti, viene fatto nella grande maggioranza dei casi oggi in anestesia topica, cioè con gocce di collirio, e sostanzialmente la sensazione è un po' come quando il dentista lavora, sentiamo che lavora ma non sentiamo male, non è una sensazione piacevole ma neppure diciamo tollerabile. In generale dopo l'intervento si può riprendere, salvo casi particolari, ma diciamo una persona media può riprendere una vita ragionevolmente normale in 2-3 giorni. E riprendere il lavoro nel giro di una settimanina, forse anche prima, e rifare una correzione ottica, cioè una sistemazione degli occhiali, ammesso che ci sia bisogno, di solito tra i 10 e i 15 giorni successivi all'intervento. Dopodiché, diciamo, le uniche prudenze che vengono consigliate è di non andare, visto che siamo in tema estivo, di non andare al mare o in piscina per qualche settimana, visto che l'incisione è molto piccola e chiusa, ma per motivi di prudenza e di igiene per qualche settimana è meglio stare un pochino attenti. Parleremo di cristallini, le lenti artificiali sono cambiate, credo sia importante conoscere quello che la tecnologia oggi mette a disposizione per, non dico scegliere, ma almeno confrontarsi, no, con l'oculista. Vorrei però rispondere ad alcuni dei dubbi più comuni, alcuni me li suggeriscono gli ascoltatori al 349-238-6666. Di solito si interviene su un occhio e poi successivamente sull'altro. A che lasso di tempo deve avvenire il secondo intervento? Ed è sempre necessario, dottor Scialdone? Dunque, il sempre necessario ovviamente no. La cataratta è una patologia degenerativa legata quindi a una degenerazione della qualità delle proteine del cristallino. È ovvio che i due occhi della stessa persona molto spesso sono più o meno nello stesso stadio di evoluzione, ma non è necessariamente detto. Ci sono persone, diciamo orientativamente un 10-20% di persone, che fa il secondo intervento dopo anche un anno o 2 anni dal precedente, quindi non ne farei una regola, insomma, necessaria. Quando si devono fare tutti e due gli occhi, in genere si separano almeno di qualche settimana per un motivo molto semplice, che è quello di essere sicuri che il primo occhio sia andato bene prima di fare il secondo. Certo, in via cautelativa. È solo in via cautelativa. Tecnicamente ci sono molti studi che dicono che farlo bilateralmente ottiene gli stessi risultati, ma la maggioranza degli oculisti non lo fa per questo motivo. Ci sono delle terapie che vanno sospese prima per l'intervento? Diciamo sostanzialmente chi fa grosse terapie cortisoniche sì, perché riduce le difese immunitarie, quindi aumenta il rischio di infezioni. E se è possibile, questo non sempre è possibile, chi fa terapie per la prostata, perché i farmaci antiprostata riducono la reattività della pupilla durante l'intervento, quindi possono causare maggiore difficoltà al chirurgo. Chi lo può fare lo meglio fa qualche mese prima, chi non lo può fare pazienza. E però è un'indicazione che noi diamo ai nostri ascoltatori, parlate, l'oculista lo chiederà sicuramente. Certo. Però no? C'è un terzo aspetto che è quello delle persone che ormai stanno aumentando molto, che sono scoagulate, chi ha fatto interventi cardiochirurgici e che prende, non so, il Coumadin, il Sintrom, cioè farmaci che riducono molto la coagulazione, si consiglia di ridurre un pochino questi farmaci se è possibile. Se sono pazienti ad alto rischio si fa lo stesso. Ma dottor Cialdone, l'estate è un periodo buono per farsi operare? Cioè mi opero prima di andare in vacanza e non ci penso più, oppure tanto che ho aspettato, fatto 30 faccio 31 e rimando l'intervento a settembre, ottobre? Certo. meno luce, no? Meno tentazione di andare in piscina, e quindi questo più può facile. Essere un motivo. Lei si ricorda quella pubblicità che diceva è sempre tempo di... Sì. Non mi ricordo più che sì. cosa. È sempre tempo di cataratta, però la realtà è che giustamente d'estate fa caldo, in genere tutti quanti ce ne andiamo, chi al mare, montagna, eccetera, eccetera, e tutto sommato in generale, questo è l'aspetto pratico, le liste di attesa sono talmente ridotte che ormai, diciamo, il paziente può permettersi tranquillamente, non dico di scegliere, ma quasi il periodo non è più obbligato come una volta. Noi parleremo anche di situazioni in cui la cataratta si associa ad altre patologie, a volte, no? Sì. Perché può capitare, certo. Un po' perché la cataratta, abbiamo visto che col passare degli anni questo cristallino si opacizza ed è un po' uno scotto che dobbiamo, lo paghiamo volentieri, pagare per vivere più a lungo, ma ci sono delle persone che hanno più patologie, la cataratta si associa, allora il dubbio viene legittimo, che faccio, mi opero, non mi opero, faccio un'operazione per tutte e certo. due. Andrei da Carlo che ci chiama da Frosinone, proprio un intervento rapido perché poi abbiamo i mercati e il meteo e ritorniamo a parlare insieme. Carlo, buongiorno a lei. Buongiorno a voi, buongiorno a lei professore. Allora, io sono affetto da retinite pigmentosa atipica e quindi adesso si è subentrata anche la cataratta avendo 48 anni, sì. Però non è, diciamo, dovuta all'età, come mi hanno detto vari oculisti, ma bensì con causa della retinite. Sì. Alcuni mi dicono di toglierla, alcuni di non toglierla, diciamo sono nel dubbio se farlo l'intervento o non farlo, diciamo, ecco, se lei mi può delucidare ancora meglio. Grazie, sì. Carlo. Dunque, volentieri, io le dico i criteri. Se lei immagina che l'occhio sia più o meno come una macchina fotografica, lei ha un problema di pellicola fotografica con la sua retinite pigmentosa, più adesso sta avendo un problema di ottica perché quest'ottica si sta appannando. Se io pulisco l'ottica troppo presto, sostanzialmente non otterrò un miglioramento della fotografia. Ma quando l'ottica è appannata abbastanza da ridurre quello che la retina può fare, a quel punto otterrò un vantaggio di ripristino. Il più o il meno, purtroppo, lo deve decidere l'oculista guardandola e quindi decidendo se, togliendo quella cataratta lì, lei può riacquisire un qualche cosa nei limiti in cui la sua retina può funzionare. Meglio di così non glielo posso dire, quindi non c'è una risposta univoca, perché a seconda della sua retinite, del livello della sua retinite, potrebbe essere il momento giusto o potrebbe essere ancora da dilazionare. Sicuramente un criterio suo soggettivo è: fino all'anno scorso riuscivo a fare delle cose, adesso non ce la faccio più. Questo può essere un criterio soggettivo per insistere. Ecco, noi siamo ritornati, parliamo di cataratta. C'è una domanda che vi ho posto e che è abbinata al consiglio di lettura di oggi. I soffiatori di vetro di Murano hanno più cataratta delle altre persone? Mandate una mail con la risposta a esserebenessere@radio24.it. Il primo di voi che manderà quella giusta sarà abbinato al consiglio di lettura di oggi. di cui non vi anticipo il titolo, però così un po'. Abbiamo due ascoltatori ancora in linea, Ernesta da Monza e Maria dalla provincia di Frosinone, ma prima volevo dare alcune indicazioni, perché oggi abbiamo detto che avremmo proprio dato tutto all'ABC, no? Devo farmi la cataratta, cosa devo sapere? Cataratta vuol dire anche lentini artificiali, perché binomio è quello indissolubile. Allora, sono tante diverse, possiamo dire che oggi la tecnologia ha reso possibile costruire delle lentine adatte ad ogni esigenza, più o meno, no? Certo, quindi certo. Sicuramente rispetto al passato oggi abbiamo più scelta, l'oculista ha più scelta, perché lui che poi sceglie decide la lentina in base alle esigenze del paziente. Ci dice le cose importanti che dobbiamo sapere noi? Ma sostanzialmente tutte le lenti che ci sono in circolazione in Italia oggi sono sicuramente di buona qualità. Faccio un piccolo inciso, nel senso che c'è qualche prospettiva, speriamo di no, che arrivino lenti dall'India piuttosto che dalla Cina, ma questo speriamo di difenderci, diciamo, professionalmente anche per i nostri pazienti, eccetera. Chiuso questo piccolo parentesi, direi che il cristallino tipico che viene impiantato alla maggioranza delle persone è un cristallino monofocale, cioè un cristallino che ha come se fosse una lente a contatto all'interno dell'occhio, per cui insieme all'oculista posso decidere più o meno con una buona approssimazione, diciamo del 90%, quale sarà il mio occhiale per lontano dopo l'intervento. Ero miope, dottore, mi lasci miope. Ero miope, dottore, colgo l'occasione, me la tolga questa miopia. Sì. Con 90% di probabilità ci azzecchiamo, lo facciamo. La tecnologia però e l'industria non si ferma qui, perché ormai da qualche anno ci sono cristallini artificiali che fanno anche altro, e fanno altre due cose. Uno è correggere gli astigmatismi, cioè una conformazione, diciamo semplificando, non rotonda ma ovale dell'occhio, può essere corretta con cristallini a loro volta ovalizzati, diciamo così, in senso opposto, per cui si può arrivare ad un risultato buono dal punto di vista refrattivo, cioè di correzione di occhiali, che prima non si riusciva ad ottenere. Questo è sicuramente un grosso vantaggio. L'altra cosa è che ci sono cristallini artificiali bifocali, cioè cristallini artificiali che riescono a correggere contemporaneamente, a causa del modo in cui sono fatti, senza cambiare niente dell'intervento dal punto di vista tecnico, che possono correggere un lontano e un vicino. Mentre qualche... Quindi io risparmio anche, perché faccio la cataratta, no? Non prendo più gli occhiali, non devo più fare il trattamento laser di chirurgia refrattiva. Non volendo. Devo più fare il trattamento laser. No, tanto per sottolineare i lati buoni, no? Perché quando uno dice mi devo operare di cataratta, viene sempre un po' di sconforto, perché dice ormai sono anziano. No, guardi, posso dire una cosa invece, che adesso, proprio perché le tecnologie stanno migliorando e anche la qualità degli interventi chirurgici, che tendiamo e ci chiedono le persone sempre di più di essere operate più precocemente. Più precocemente. Un tempo operavate quella matura, adesso. Esatto, guardi, la parola matura non c'è più, anzi, più. È peggio, perché aumentano i rischi. Più aspetto, più aumenta il rischio. Senta, dottore, ma questa famosa cataratta con il laser arriverà, non arriverà? Si è fermata? È incredibile, ma vero. Una volta c'erano stati dei tentativi, ma sono, diciamo, in qualche modo abortiti. Adesso invece c'è un nuovo laser che si chiama femtosecondi, cioè tecnologia completamente diversa e nuova, inventato per la cornea, quindi per fare chirurgia corneale, che invece sta per essere adattato al trattamento della cataratta. Sostanzialmente il laser che cosa sta per fare? Emulsifica il nucleo dall'esterno, cioè invece che andare in sala operatoria lo, come dire, detto volgarmente, lo spappola, lo è un premasticato, sì. Come gli omogenizzati, sì. Il chirurgo, se lo trova già premasticato, arriva in sala operatoria, fa un buchino piccolissimo e lo aspira, esattamente come un aspirapolvere. Il vantaggio sono soprattutto i rischi, molto più ridotti, perché si riducono le fasi operatorie. Non è una questione di velocità, ma di sicurezza dell'intervento. È una tecnica che è una tecnologia molto costosa, come ci si può immaginare. I primi laser sono già in sperimentazione negli Stati Uniti e in qualche centro europeo, e presumibilmente nei prossimi 3-4 anni li avremo operativi. Bene, allora Ernesta ci chiama da Monza, 800 24 00 24. Sì, pronto? Ernesta, eccoci. Buongiorno. Qua. Buongiorno. Tanti complimenti, lei è bravissima, la trasmissione È una meraviglia. Grazie. Ascolti, no, io la mia domanda era questa. Siccome sono stata operata via cataratta, prima un occhio, il destro, e avrei dovuto fare subito, anche là subito, loro dicono subito, l'altro. Io ho aspettato un po' e mi sono accorta che invece il primo occhio operato non andava bene. Ho aspettato parecchio, dopodiché scusi, mi sono fatta vedere tante volte. La interrompo, parecchio cosa vuol dire? Parecchi, quasi un anno ho aspettato prima di operare l'altro. Siccome mi è stato detto che era bene che operassi l'altro perché era già matura e decisamente stava matura, l'ho operato e mi ha detto non si preoccupi perché l'altro... prima mi dicevano che non c'era niente, per cui mi sono spaventata per il secondo occhio, ho fatto operare anche l'altro. Dopodiché il primo occhio che non mi andava bene, non vedevo bene, eccetera, eccetera, vedevo peggio di prima dell'intervento. Dicevano che l'occhio era buono, ho fatto la fluorangiografia, non c'era niente. Alla fin fine, a furia di farmi vedere, a furia di, mi hanno detto vai di qua, vai là. E mi ha detto no guardi è la seconda cataratta, è la cataratta secondaria. Non si deve preoccupare. Sono appena andata ancora a farmi vedere, mi hanno detto manca poco, non siamo ancora al punto, però verso ottobre sarà sicuramente il mese giusto, potrebbe essere il mese giusto. Allora la mia domanda era anche questa, siccome sento parlare di laser che c'ha anche le controindicazioni, c'è anche i lati, ma mi sono invece resa conto che non è così, avendo sentito adesso il dottore che parlava del laser come di una... Arriverà, non è ancora pronto il laser. Però quello per non è quello di cui parlava. Cataratta. Ecco, comunque vorrei essere rincuorata. Vorrebbe essere rincuorata, Ernesta, questa è la richiesta in sostanza. Allora, primo approfitto dell'occasione perché la parola laser è una parola generica che indica un certo tipo di tecnologia, ma... poi le applicazioni, ci sono tanti tipi di laser diversi a seconda di quello che devo fare. Quello per la cataratta secondaria è un laser che fa solo quello e non c'entra niente con quello che farà la cataratta o con altri tipi di laser per la retina. Quindi quello che farà la signora è un laser YAG che fa una capsulotomia, cioè fa un buchetto nella buccia del suo vecchio cristallino che è stato lasciato in sede durante l'intervento per fare da appoggio al cristallino artificiale, a quello di plastica. Col tempo su questa membrana trasparente, è una roba da 40 micron di spessore, come un velo di cellophane, diciamo, che su questo velo con il tempo ci può accrescere uno strato di cellule che quindi lo opacizza come se fosse un vetro soffiato, per l'appunto. Per i nostri soffiatori di Murano. La vista si riannebbia come se mi tornasse un'altra volta la cataratta, e in pratica così è in un certo senso dal punto di vista soggettivo. Quindi il laser non fa altro che fare un buchetto più o meno grande in questa membrana, cataratta secondaria, e torna alla vista. I rischi sono veramente estremamente ridotti. C'è un aumento di opacità mobili per almeno temporaneamente nel vitreo, perché è proprio direttamente a contatto dietro, ma si riacquista una vista che è, a meno che non ci siano altri problemi retinici, eccetera, che è uguale a quella che avevamo dopo l'intervento, un mese, due mesi, tre mesi. Quindi mi scusi, dottor Scialdone, se una persona si fa un intervento di cataratta, deve comunque mettere in conto che a distanza di... quanti anni? Un po' di tempo. Le percentuali sono molto più basse. Una volta, quando usavamo cristallini di PMM, altro tipo di materiale che oggi non esiste quasi più, le percentuali arrivavano al 50% di cataratte secondarie dopo 5-6 anni. Adesso siamo a percentuali variabili tra il 4 e il 7% a distanza di sempre di qualche anno. Quindi molto basse, non vuol dire che per forza lo devo fare. Siamo tornati subito, 824 0024, se volete parlare di cataratta insieme a noi, come fa Maria dalla provincia di Frosinone. Buongiorno a lei, Maria. Buongiorno a tutti, buongiorno. Senta, io volevo dire, io ho la cataratta a tutti e due gli occhi e devo operare un occhio, ma all'occhio che devo operare mi si è rotto il vitrio. Sì. Quindi è un... sono una decina di giorni, sto facendo le curette del caso, e quello che mi chiedevo io è quando adesso a settembre dovrò fare la cataratta. Sì. Che succede? Che succede? Dottor Scialdone, che succede? Quest'occhio si è spaventato e ha mandato un segno da là. Non voglio! Allora, dottore... Io farei un'altra domanda. Vede dei flash luminosi? Flash li vedo la notte. E cioè, quando chiudo gli occhi, ogni tanto al lato dell'occhio vedo... Ma non è un flash, è come se vedessi una lucina. Sì, capito. E poi sparisce. Certo. Guardi, del distacco di vitro le avranno già spiegato abbondantemente, quindi non glielo ripeto. Però la sensazione che abbia queste luci che vede se gira l'occhio, soprattutto al buio, danno l'idea che il suo vitreo non sia completamente staccato, ma sia staccato in parte. Vuol dire che in certi momenti, anche se in modo piuttosto debole, muovendo gli occhi il vitreo galleggia all'interno dell'occhio e quindi fa trazione un po' sulla retina. Io mi farei ricontrollare a settembre prima dell'intervento, se c'è ancora qualche dubbio, qualche luce, ritarderei un po' l'intervento di cataratta. E andiamo a Guido che ci chiama da Catania. Buongiorno Guido. Buongiorno a voi. E complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. È veramente eccezionale. Io vorrei chiedere al professor Scialdone, siccome sono stato operato di cataratta prima all'occhio destro un anno fa e 5 giorni fa all'occhio sinistro, però succede un problema che mi ha fatto ritardare, cioè questo lasso di tempo di un anno è stato dovuto al fatto che appena operato all'occhio destro la sera, incrociando delle luci, vedo come dei raggi luminosi. Durante il giorno vedo perfettamente, però la sera, incrociando dei punti luce, vedo come dei raggi luminosi. A cosa è dovuto tutto questo problema? Ma scusi, lei ha un cristallino monofocale normale o qualcosa di particolare? No, il solito cristallino che usano nelle cataratte. Basic, insomma. Cioè, nel senso che non ha chiesto una correzione ulteriore di un suo disturbo visivo, vero Guido? Come? Non le hanno messo un cristallino per correggere ad esempio la vista per lontano. Però ha avuto questo problema di lucine, tanto allora, che ha detto per il secondo aspetto. Questo è uno dei rischi, degli effetti collaterali, esatto. Sparisce col tempo oppure no? Allora, diciamo la motivazione. Allora, io parto dal presupposto che lui sia stato corretto dal punto di vista degli occhiali nel modo giusto, perché qualche volta se rimane un po' di astigmatismo residuo o un occhiale da correggere, se non mi metto l'occhiale vedrò le cose sfocate o vedrò le cose con delle abbagliamenti delle luci. Posto questo, i cristallini artificiali hanno delle curvature che sono diverse e sono più piatte da quello cristallino naturale. Quindi qualche volta si possono generare degli effetti di trasmissione della luce all'interno del cristallino che possono dare questi effetti. Problema. Succedono in una percentuale molto ridotta di persone, ma possono capitare. Bisogna verificare la posizione del cristallino, se è messo correttamente, se è successo qualche cosa. Se non c'è niente di questo, in generale quello che si può fare è sostituire questo cristallino. Se è una cosa intollerabile si toglie e si rimette un altro cristallino. Quindi tutto sommato c'è una possibilità. Si recupera. Senta, prima di chiedere a lei la risposta del nostro quiz di oggi sui soffiatori di Murano, volevo chiederle, c'è modo in qualche modo di aiutare il cristallino a mantenersi limpido nel tempo? Si può prevenire, ritardare meglio la cataratta? Certo, si può quantomeno cercare di rallentare il processo. Uno, mettersi... gli occhiali da sole più spesso possibile, perché una parte dei raggi ultravioletti arrivano al cristallino. 2, antiossidanti. Sì. E c'è una ricerca recente, fra l'altro, recentissima, che è riuscita ad appurare che una parte degli antiossidanti del tè verde riesce ad arrivare all'interno dell'occhio. Magnifico. Per cui anche questo è un'altra aiuta. Aggiunta. Tè verde e via andare. E la terza cosa è non fumate. Non fumate perché il fumo aumenta la cataratta. questo è appurato, non è recente, è una cosa che sappiamo da tempo. Il fumo non fa bene a niente, allora vogliamo invece dare la risposta giusta. I soffiatori di vetro di Murano hanno più cataratta delle altre persone? Qual era la risposta giusta, dottor Scialdone? La risposta giusta è che i soffiatori di vetro lavorano molto vicino al calore, perché il vetro è bollente, e quindi hanno più cataratta perché è una cataratta da calore. Esiste anche questo tipo di cataratta, ma Giovanni da Bari ha mandato una mail a essere benessere@radio24.it con la risposta giusta, e quindi consiglio di lettura per Giovanni. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop e anche alla sua competenza e rapidità, Giovanni riesce ad avere a casa esami medici dalla A alla Z, tutto quello che vorresti sapere su oltre 400 test clinici. In collaborazione con IBS.it. E io starei sempre dalla zona oculare, dal cristallino. Ci facciamo proprio un passetto, non so quanto sia in termini di millimetri, centimetri, mezzo centimetro. Saltiamo sulle palpebre, insomma sulla zona perioculare, che a volte, soprattutto in questo periodo, si arrossa, prude, diventa gonfia. E allora noi, dopo aver così affidato il nostro cristallino al dottor Scialdone, affidiamo la nostra palpebra superiore e inferiore il professor Leonardo Celleno, dermatologo dell'ospedale Columbus dell'Università Cattolica di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sarà il sole, sarà la stanchezza, sarà il trucco, un po' di polvere, un colpo d'aria. Ci sono tante persone che in questo periodo dell'anno lamentano un fastidioso prurito, rossore proprio sulla palpebra superiore o inferiore. Che cosa si può fare? Noi nel nostro sommario abbiamo detto prendila con dolcezza, è così? Beh, questo è sicuramente una regola fondamentale. La palpebra è una zona della pelle estremamente delicata, oltretutto ricopre un organo molto delicato, quindi tutto quello che avviene intorno all'occhio deve essere davvero dolce. Questo è importantissimo. Certo, aumenta in questo periodo la sofferenza della palpebra perché il calore, perché il sole, il sudore e magari l'uso di cosmetici troppo abbondanti per un periodo estivo può sicuramente influire negativamente e dare origine a tanti piccoli disturbi delle nostre palpebre. Che possiamo fare? Il classico impacco? Ma prima di tutto dobbiamo cercare di, soprattutto la donna, deve evitare di fare quel gesto quotidiano così traumatico, cioè portar via il trucco che ha messo sulle palpebre strofinando dei batuffoli o di cotone o di tessuti particolari, sì, che anche per quanto morbidi continuamente abbradano la superficie della pelle. E molte volte la donna fa anche un grave errore, usa un po' di latte detergente, prende il suo batuffolino, certo, strofina e poi neanche sciacqua, rimane tutto quanto lì. La parte meccanica dell'asportazione dello sporco, del latte detergente non è globale, non è completa. Rimarranno in questi casi dei tensioattivi sulla pelle della palpebra che sono responsabili, certo. Quindi attenzione allo strucco, e per gli uomini io sto sforando, professore, diamo un consiglio anche all'altra metà del cielo. Ma l'altra metà del cielo sono uomini, problemi. Non si lamentino, certo, o non no? Si lamentano, però ecco, attenti al sudore quando si fa sport, molta attività fisica, sport, e attenti al sole, sole, sudore, sport, e guai a mettere profumi sotto il sole quando fa caldo, possono dare fastidi anche a noi uomini. Allora, amiche, mi raccomando, stasera strucchiamoci con delicatezza. Dottor Scialdone, grazie. Professor Celleno, grazie anche a lei. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata. Essere e benessere.